Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. Tu cadrai nelle mie braccia come i grappoli dell'uva che teniamo nelle mani. Quando il sole di settembre scenderà sulla campagna canteremo una canzone. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. Quando poi verrà la sera, quando tutte le farfalle dormiranno sulle foglie, se davvero mi vuoi bene, ogni chicco di quell'uva ci daremo un lungo bacio. Poi tornando verso casa con le mani nelle mani canteremo una canzone. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. Sarà triste dirci addio, sarà triste amore mio, ma l'amore dura un attimo. Quando credi di sognare ti risvegli tutto a un tratto proprio quando dici t'amo. Ma se un giorno sarai solo non scordarti che una volta cantavamo una canzone. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore.